marshmallows to come with me. La di da di di di di. You're a marshmallow, so come with me. Marshmallows, so come with me.